Benvenuti a tutti, nuova puntata della serie Ti racconto una storia, il volo dell'Aquila. In questa puntata con noi un ospite speciale, mio professore durante gli anni del liceo tra l'altro, ma giocatore leggendario per il Montevarchi, autore di uno dei gol che sono rimasti scolpiti nell'immaginario collettivo cittadino e sportivo della storia dell'Aquila Calcio 1902. Con me in studio alla regia Paolo Sorrentino e ai microfoni Fumino. Buonasera a tutti. L'ospite di stasera, come diceva Julian Carax, è un ospite veramente importante. Non sto a dilungarmi molto altro sulla presentazione, ma vi dirò il suo nome: Piero Bencini. Buonasera. Partiamo proprio dal momento chiave, quello diciamo più ricordato a Montevarchi e anche ai tempi a livello nazionale, perché si tratta di una partita che ai tempi era in schedina. Il Montevarchi andò a giocare al Marassi di Genova contro il Genoa, risultato clamoroso, Montevarchi vince 1-0, Piero Bencini segna. Ma devo dire che questo gol ha dato più emozioni negli anni successivi, a distanza di 10-15 anni, e anche oggi, che diciamo in quel periodo in cui ci fu questa partita e questa vittoria, perché lì per lì, sì, mi ricordo la gioia del momento, anche diciamo una certa, come dire, qualcosa che andò molto oltre le nostre speranze. Fra l'altro devo ricordare, vorrei dire, io sì, sono stato l'autore di quel gol e tutto, ma il vero artefice di quella vittoria, insomma, fu Gabella, che parò tutto quello che c'era da parare, insomma, ecco, loro praticamente fu un assedio costante nella nostra porta, un unico contropiede nostro fatto a 5-6 minuti dalla fine. E mi ricordo in quei 5-6 minuti io, come tutti i miei compagni, pregavo, ma io soprattutto pregavo, diciamo, che questo gol ci dia la vittoria, insomma. Però per dare veramente una giusta dimensione alle cose bisogna dire che l'eroe vero di quella partita fu Gabella. È vero, però una situazione analoga è accaduta anche qualche anno dopo. Montevarchi va a giocare a Firenze contro la Fiorentina, al tempo Florenzia Viola, lì c'ero, quindi mi ricordo esattamente, si subisce tutta la partita, alla fine Cellini segna il gol dell'1-0, vinciamo di fatto. Grande prestazione di squadra, grande diciamo più che altro a livello di cuore, si ricorda sempre Cellini, alla stessa maniera si ricorda sempre Bencini per la vittoria di Genova. In realtà a Montevarchi hai giocato tanti anni all'interno di una carriera che comunque ti ha portato in giro per l'Italia anche in categorie di prestigio. Per riallacciarmi a quello che stavi dicendo, che anche nello spareggio contro la Pistoiese, quando a Firenze vincemmo lo spareggio e andammo in C, anche lì fu una partita a senso unico, perché fummo nettamente dominati dalla Pistoiese. E poi però si ricorda i gol di Scarpa, che a pochi minuti, anche lì a pochi minuti dalla fine, ci diede questa vittoria importante. Diciamo che sta un po' la caratteristica, no? I momenti più belli sono stati subire per tutto il tempo e poi trovare il gol, la vittoria nei momenti finali. Parafrasando una famosa canzone degli 883, è la dura legge del gol. Alla fine il calcio da questo punto di vista è uno sport impietoso, non è come ad esempio la box, dove ai punti comunque si decreta un vincitore quando non c'è un KO, e di conseguenza chi fa gol ha ragione, vince chi segna, e quindi è giusto dal mio punto di vista che sia ricordato anche questo aspetto del gioco. In quegli anni lì, specialmente la vittoria a Genova, eravamo ancora un po' provincialotti, Montevarchi si affacciava per le prime volte nei palcoscenici un po' più importanti della CIV, la prima volta che veniva conosciuto, per cui fra noi, anche noi giocatori, a volte scherzavamo, no? Quando siamo scesi in campo a Marassi, il capitano Pelini aveva scelto la curva dei genoani e lui diceva: guarda, ti sei sbagliato, non sono montevarchini quelli, perché erano rosso-blu come noi, no? Quindi per dire quanto ancora eravamo così un po' alla buona, insomma, avevamo poca esperienza di questi palcoscenici. Quindi si scherzava nello spogliatoio anche in campo, proprio per superare magari un momento di tensione molto forte, perché io mi immagino questo magari me lo confermerai, io mi immagino persone che vengono da un paese che per la prima volta si affacciano a giocare in un calcio un po' più importante, alla fine giocare sì contro il Genoa, che è vero era un po' una nobile decaduta, 9 scudetti già vinti nella massima serie in Italia, quindi mi immagino l'emozione che si prova ad uscire dagli spogliatoi, dal tunnel, e si entra in campo e invece di esserci, che ne so, il campetto o comunque il campo medio, di media importanza, che magari una persona è abituata a vedere, e invece si ritrova a Marassi, dentro lo stadio di una città. Ancora oggi ci sono tifosi sampdoriani che ci ringraziano, che ci spediscono lettere a Montevarchi ringraziandoci per quel gol. Devo dire che per i tempi quella lì è stata veramente, fu una vittoria che fu epocale, insomma, ecco. Io devo dire che negli anni successivi, lavorando per il Genoa Osservatore, mi capitava spesso di andare lì a Pegli, al campo d'allenamento, e incontrare a volte Maselli, Turone, i protagonisti di quel momento, di quella partita. E loro dicevano: il nostro unico neo è aver perso in casa con il Montevarchi. Cioè, ma non se lo spiegavano, perché per loro, diciamo la verità, fu una sconfitta in gran parte meritata, insomma, non è che avevamo fatto di tutto per vincerla. Poi il calcio a volte è strano, finisce per consegnare delle situazioni che sono inaspettate, però per loro è rimasta una macchia. Devo dire che quando c'è stato, hanno festeggiato i 100 anni di storia del Genova, mi ha telefonato un giornalista del secolo XIX, ho avuto tutta un'intervista su questa vittoria, ed è vero che chi va a volte a Genova e capita in qualche ristorante gestito o da genoani o da sampdoriani, gli dicono: ah, di Montevarchi, ma ci hai fatto il favore una volta, così, oppure dicono: madonna, sta la nostra Caporetto, e sono disperati. È rimasta, ora ormai sono passati tanti anni, però insomma. Magari si potrebbe cogliere l'occasione per dare il suo indirizzo di casa in diretta radio, così che magari qualche sampdoriano decide per Natale di fargli anche il regalo, perché alla fine insomma si è ancora tanto ricordata. Ma ti ho detto, io ormai sono stato 5 anni ho lavorato lì per il Genoa, per cui lo sapevano, ci scherzavano sopra. Anche perché appunto Piero Pencini, dopo che ha finito e ha appeso le scarpette a chiodo, ha proseguito lavorando nel calcio, ha fatto osservatore tecnico per molte squadre di Serie B, ha fatto anche il vice allenatore negli anni d'oro, diciamo, almeno negli ultimi anni d'oro della squadra di quel paesino qua vicino, e in particolare mi ricordo di una partita, di un derby in cui Piero Pencini era vice allenatore dell'allora allenatore Maurizio Sarri e tornò a Montevarchi dall'altra parte. Che accoglienza ti ricordi di quella partita? Ottima. Vabbè, dai, ci furono un po' di persone, fra l'altro tutti amici, anche fra l'altro, anche persone che conoscevo bene, che poi dopo, una volta passata la partita, abbiamo recuperato anche il rapporto. Però capisco che a volte lo stadio cambia le persone, no? Specialmente questi derby così sentiti, questa rivalità così forte. Uno sportivo la vive in maniera diversa da un professionista. Io sono stato un professionista del calcio e sono andato a seconda delle esigenze, là dove mi capitava di andare, quindi io non è che ho vissuto questa rivalità così come viene vissuta e come è stata vissuta dagli sportivi. Devo dire, anche qualche studente a scuola lo vidi che mi contestava, mi fischiava e mi diceva delle male parole. La mattina andai in classe a cercarlo ed era un compagno di classe tua, se non mi sbaglio. Esatto, io ero al suo fianco, tra l'altro, anche se ero zitto comunque. No, in realtà, siccome questa trasmissione si pone l'obiettivo di indagare quella che noi definiamo la montevarchinità attraverso la storia della squadra cittadina e quindi del Montevarchi Calcio, in un modo o nell'altro quello che ti hai raccontato riporta in sintesi uno dei principi, chiamiamolo così, della montevarchinità: il fatto che comunque al momento in cui il montevarchino entra allo stadio e tifa per i valori della sua squadra si trasforma, e magari anche se il bersaglio, in questo caso delle offese, è l'amico o il conoscente o anche il giocatore bandiera degli anni che furono, in questo caso passa sopra, e comunque in sede di partita tutto è lecito. Credo che la montevarchinità non abbia niente a che fare con la professionalità di un calciatore, di uno che fa quella professione lì. Credo che a un calciatore si debba rimproverare se non onora la maglia, se non si impegna, se non fa il proprio dovere, a prescindere da qualunque sia la maglia che indossa. Poi il resto, vabbè, gli sportivi sono sportivi, ripeto, in quel momento ci sono state delle persone sicuramente che sono andate oltre le righe, però col tempo io poi mi sono accorto che in fondo non c'era cattiveria, non c'era, abbiamo recuperato i rapporti, io parlo tranquillamente con tutti. Il trauma, diciamo, più grosso fu il primo abbandono, quando da Montevarchi come calciatore andai a San Giovanni. Ecco, quello fu un momento inaspettato soprattutto, ma sotto certi aspetti fu traumatico, insomma, fu traumatico anche per i miei genitori, per cui mio babbo in particolare. Però ripeto, sono delle situazioni che non si sviluppano in un certo modo e alla fine poi ti ritrovi in una situazione che magari 3 giorni prima non avresti mai immaginato, ecco, così. Diciamo, è la magia del pallone, il brutto e il bello che succede intorno a questo sport, e probabilmente questa è una cosa che chiaramente non succede solo a Montevarchi. La montevarchinità, come noi la chiamiamo, sì, la indaghiamo, la cerchiamo, ma perché sosteniamo che quello che è la montevarchinità è in realtà comune un po' a tutti, un po' a tutte le situazioni. Ma torniamo allora, visto che hai riaperto la parentesi del calcio giocato piuttosto che quella successiva, mi soffermerei ancora un attimo sul calcio giocato, perché dopo 6 stagioni a Montevarchi, ricche anche di soddisfazioni, tra le quali il gol al Genova e poi il passaggio a San Giovanni, poi c'è stato il Pisa. Da Pisa sono tornato un anno a Montevarchi, poi da Montevarchi sono andato a Reggio Emilia, poi ho fatto Siena e poi Lucca. Citiamo queste piazze molto importanti, soprattutto nel calcio degli anni 70. Non sei stato solo di passaggio in queste piazze, hai vinto svariati campionati, tra l'altro un campionato di Serie C, con la Reggiana. Due promozioni in B, una con il Pisa e una con la Reggiana. Due promozioni in Serie B addirittura, quindi da calciatore le soddisfazioni, le piazze belle te le sei proprio levate. E due campionati vinti con il Montevarchi anche. E due campionati con il Montevarchi. Di conseguenza direi, che sensazioni hai provato? Quali sono, a memoria adesso, sono passati 40 anni quasi, però quali sono le memorie di quei tempi che ti porti ancora con te rispetto alle differenze di giocare in una piazza come può essere Montevarchi, che comunque è la tua città, e in una piazza molto più grande come potrebbe essere Reggio Emilia? La prima differenza grande l'ho trovata quando da San Giovanni andai a Pisa. Cioè, mi calai in una dimensione completamente diversa, perché anche se Pisa non stava in quel periodo attraversando, diciamo, un momento di particolare gloria economica, perché avevano delle difficoltà e tutto, però ti rendi conto che c'è, alle spalle c'era una tradizione di Serie A, quindi una città, e quindi era veramente un altro ambiente sotto tutti i punti di vista. 10.000 persone nello stadio, poi 15, poi 20.000. Il primo anno, insomma, si dovette lottare perché fu l'anno di passaggio in cui la C veniva divisa da C1 a C2, no? Cioè la C unica veniva spezzata, C1, C2. Quindi le prime 10-12 squadre di ogni campionato accedevano alla C1, quindi quella fu una lotta per passare in C1. E l'anno successivo, con l'avvento di Anconetani, il Pisa lottò per vincere il campionato, e vincemmo il campionato. E in quell'anno lì avevamo mediamente 15.000 persone allo stadio. Quando scendi in campo sono emozioni diverse che trovarti di fronte a 1.500-2.000 persone. Devo dire anche che Montevarchi in quegli anni lì, anche per i giocatori che venivano fuori, era gratificante giocare a Montevarchi, perché c'era un paese, una cittadina che gravitava tutto intorno al mondo del calcio. Il calcio era presente ovunque, andavi in qualunque locale e sentivi parlare di calcio, di calciatori. I calciatori venivano ospitati costantemente nelle famiglie, inviti a cena. Quindi c'era proprio una simbiosi forte fra calcio e la città. Devo dire che oggi, negli anni, poi i tempi sono cambiati, rimane uno zoccolo duro di tifoseria, però ecco, Montevarchi non è più a quei livelli, e anche, diciamo, anche negli ultimi anni di C, insomma, non c'era più quel feeling fra calciatore e città come c'era prima, insomma, ecco. E quindi quegli anni sono stati anni particolarmente belli, credo siano stati i migliori della storia del Montevarchi. Di fronte a questo palmarès importantissimo della tua carriera da giocatore, cosa si prova a vincere un campionato e ne hai vinti ben 4, e cosa si prova nel passaggio dalla Serie C alla Serie B? C'è molta differenza in questi campionati oppure è una differenza minima per un professionista? La vittoria di un campionato è un qualcosa che vivi settimanalmente, perché ti accorgi, cioè la squadra, sei una squadra competitiva che stai lì sempre nelle prime posizioni e quindi in un certo senso ti abitui a questo tipo di situazione, ti senti importante, considerato, perché la città comunque vive intorno, si stringe sempre di più intorno alla squadra, e quindi quando arrivi a vincere il campionato hai già in qualche modo, diciamo, smaltito tutto quell'entusiasmo, no? Che non è solo l'ultima giornata, ma è tutto quello che ti porti dietro domenica dopo domenica. Devo dire che a volte però i campionati si decidono all'ultime partite. A Pisa, per esempio, il nostro campionato si decise all'88esimo della penultima partita in casa contro il Catania. Pareggiavamo 1-1 e ci fu il gol di un nostro giocatore quasi allo scadere del tempo, e questa vittoria 2-1 ci assicurò la vittoria del campionato, insomma, ecco. Quindi lì ci fu una grande festa. Poi la domenica successiva andammo a giocare a Pagani, avevamo un presidente, il presidente Anconetani, molto folcloristico. Al ritorno da questa trasferta vinta, fra l'altro, quando scendemmo dall'aereo, Anconetani era lì che baciava il terreno, tutta la gente, sai? Anche se ti sei preparato tutto l'anno e cose, poi l'emozione dell'ultima partita, dell'ultima della festa, ti dà soddisfazione. Però ecco, la vittoria di un campionato è qualcosa che vivi partita dopo partita, momento dopo momento. La società di categoria innanzitutto significa maggiore, miglior contratto. Indubbiamente sono soldi che gravitano in maniera abbastanza importante, significativa. E però poi la categoria superiore significa anche andare a calcare stadi più importanti, avere più pubblico, confrontarti con giocatori anche di livello nazionale, conosciuti, eccetera, eccetera. Quindi è tutto, sicuramente è tutto un altro stimolo. Dal punto di vista della professionalità cambia poco, perché poi le società di C si allenavano come si allenavano quelle di Serie B, cioè da un punto di vista di, diciamo, di allenamento, di programmi, erano le stesse cose. Era la domenica che l'impatto era diverso, insomma, ecco, questo sicuramente sì. Hai giocato a Pisa e quindi hai giocato il derby Pisa-Livorno, hai giocato a Montevarchi, ma hai anche giocato in quell'altro paesino qui vicino, per cui hai anche vissuto sia sul campo che da vice allenatore, in questo caso, di quell'altri, appunto il derby tra Montevarchi e quell'altri di là. Quindi puoi farci un raffronto sia folcloristico, e quindi sia guardando come è vissuto dal pubblico, che da sportivo e quindi da giocatore in campo, tra questi due derby toscani? Uno è quello, diciamo, d'eccellenza, quello Pisa-Livorno, che solitamente viene sempre citato quando si parla di campanilismo in Toscana. L'altro ci riguarda molto più direttamente in quanto montevarchini. Vabbè, senti, i derby, io ho avuto la fortuna di giocare qui in Toscana e giocare in Emilia-Romagna, a Reggio Emilia, per cui di derby ne ho fatti a Iosa. Qual è il punto che unisce tutte queste situazioni? È che il derby comincia ad avvertirlo 15 giorni prima, cioè comincia a prepararti 15 giorni prima per questa partita, perché senti che pubblico ti ferma per strada, ti comincia a dire: oh, mi raccomando. Quindi già quando ti alleni un po' con la tensione, con la paura, di speriamo non mi faccia male perché ci voglio essere. E poi quando arrivi proprio agli ultimi giorni del coso, allora proprio lì la tensione è al massimo e ci tiene a giocare queste partite, perché sono le partite alle quali nessun giocatore vuole mancare. Pisa-Livorno è sempre stato un derby molto, molto sentito. Ho avuto la fortuna di vincere a Livorno e ho avuto anche la sfortuna di perdere a Pisa. E lì fu una tragedia. Nonostante questo riuscimmo a vincere il campionato, ma vi giuro, fu una tragedia. Fu mandato via l'allenatore, furono mandati a casa 3 o 4 giocatori, eravamo in ritiro subito dopo la partita lì a Tirrenia, in un hotel, con tutti i livornesi fuori dell'hotel a prenderci in giro, a farci gli sfottò, e quindi fu un trauma. Arrivò un nuovo allenatore, fu mandato a casa Seghedoni, 3-4 giocatori via, Anconetani che era su tutte le furie, cioè non si poteva. E quindi lì fu una tragedia, si rischiò un campionato che si stava per vincere con questa sconfitta in casa, gol di Vitulano da tre quarti campo. Poi piano piano ci riprendemmo e riuscimmo a vincere il campionato. All'andata invece avevamo vinto a Livorno. A parte alla fine del primo tempo ci fu un'incursione dei tifosi livornesi verso la curva pisana che li fecero scappare tutti, così. Ma noi a fine partita uscivamo dagli spogliatoi tranquilli, tutti sul pullman, non c'era niente, e così partiamo con il pullman. Fatti 500 metri dallo stadio partì una sassaiola dei tifosi livornesi, erano lì, ci spaccarono tutti il pullman, tutti sotto, arrivò polizia, scorta della polizia, ecco. Pisa Livorno era questo, non c'era mai una, devo dire anche Pisa Lucchese era un derby molto sentito. Mi ricordo questo particolare episodio, lo citi perché un po' rende l'idea anche di cosa ero io come giocatore. C'era questo derby che si doveva andare a Lucca a giocare il derby, era sempre l'anno che abbiamo vinto il campionato, e quella settimana lì io ero un po' in discussione perché avevo giocato male, quindi ero un po' attaccato sulla stampa. Ecco, una cosa che è diversa tra Montevarchi e Pisa c'erano tre giornali che tutti i giorni parlavano di calcio, no? Giornali locali, Tirreno, La Nazione, più qualche altro, cioè più i giornali sportivi, quindi eri continuamente sotto tiro, no? Ti andavano a spulciare su tutto e dicevano: no, ma Vincino non è in forma, non andrebbe fatto giocare questo, deve giocare questo, allora facciamo informazioni. E durante il ritiro, l'ultimo giorno di ritiro, eravamo in ritiro a Tirrenia e si sta facendo il riscaldamento, io ero in testa al riscaldamento. A un certo punto del riscaldamento il nostro capitano, allora era Di Prete, si ferma e gli fa a mister Seghedoni: mister, gli dica a Vencini se gioca o non gioca domenica, perché se non gioca si mette l'anima in pace e ci si riposa, e così non è più possibile. E lì, se appena inizia il riscaldamento, va a 200, e così, capito? Poi giocai, fu anche uno dei migliori in campo. Perché la tensione era stata trasformata quindi in una prestazione positiva. I derby non si potevano perdere un derby era una cosa. Quando si andò a giocare a Lucca c'era tutto l'intasamento sulla strada, non si passavano le macchine, il pullman dovette essere scortato dalla polizia perché se non si arrivava in tempo. C'era un esodo di tifosi pisani verso Lucca. Ripeto, era anche l'anno in cui noi si stava vincendo il campionato, per cui si muovevano tanti sportivi, si muovevano. E una curiosità, noi siamo figli dell'allenatore nel pallone, quindi Lino Banfi, il nostro calcio in TV è questo qua. E una curiosità, avevi qualcosa di tuo personale o qualche rito di squadra che facevate, ad esempio prima delle partite o durante la settimana, che ne so, boh, il giovedì andiamo tutti a fare un chilometro a piedi al santuario, che ne so. No, ecco, io non avevo il vizio di fumare, però siccome pensavo mi portasse bene, sabato sera dopo cena e la domenica dopo pranzo mi fumavo una sigaretta. Poi prima di scendere in campo ero l'ultimo a entrare, perché andavo prima in bagno, ultimo nel bagno, per poi entrare per ultimo, poi basta, non avevo altre scaramanzie, insomma, erano queste, mi limitavo a queste, però ce n'erano di scaramanzie di tanti. Tipo la più singolare o quella che più ti ricordi di qualche compagno di squadra in qualsiasi squadra, cioè quella più singolare, la più divertente? Ma guarda, di compagni di squadra non lo so, perché poi in quei momenti ognuno pensava a sé, ognuno di noi aveva il suo rito, il suo modo di stringersi le scarpe, di mettersi il calzettone e tutto. Visto che è un personaggio famoso, posso dire alcune delle manie di Sarri, come scaramanzia, era uno estremamente superstizioso. Quello di non toccare mai il pallone né nel riscaldamento né quando è in panchina, se gli passa un pallone accanto si sposta perché lui non vuole assolutamente toccare il pallone. Quello di non entrare, di non attraversare il campo, lui non attraversa mai il campo, cioè se esce dallo spogliatoio non è che attraversa il campo per andare alla panchina, lui fa tutto il bordo, giro fuori campo, perché poi a parte il nero e tutto, devo dire ora io negli ultimi anni lo seguo un pochino meno, che penso anche, ho visto certe cose là un po' cambiate, perché poi anche è sempre meno vestito di nero, magari dopo il blu, poi che lui deve un po' adattarsi, perché a grandi livelli non ti perdonano, cioè è vero che contano i risultati, però conta anche come ti presenti, come ti vesti, contano anche queste cose qui, perché l'etichetta è l'etichetta, insomma. È chiaro che poi adesso, allenando a Napoli, comunque già una città scaramantica, vai vestito di nero, già un attimino mi hai visto ora, male. Ora mi sembra che non è più tanto vestito di nero. Anche perché a Napoli i colori sociali sì, saranno obbligatori. Abbiamo un po' abbandonato questa cosa, però quando lo vedo uscire dal tunnel non gli vedo mai ancora attraversare il campo, lo vedo sempre fare il perimetro. In una conferenza ormai di qualche anno fa, tenuta qui a Montevarchi, c'era ospite l'allenatore Sannino. E Sannino disse che una delle cose, degli aspetti che più lo colpì nel passaggio dalla Serie B alla Serie A, quindi al massimo calcio italiano, era il fatto che i giocatori in Serie B erano giocatori, mentre in Serie A lui le definì aziende. Per lui era come allenare 11 aziende. Nella tua esperienza, anche in società comunque di alto livello, puoi riconoscere qualcosa di vero in questo oppure no? Ma guarda, non lo so, cerco di interpretare un po' questa affermazione. Penso che ogni giocatore in Serie A, a parte che ci sono tanti soldi in mezzo, ma ogni giocatore è rappresentato da vari procuratori, per cui ogni procuratore certamente esercita una pressione sulla società, sull'allenatore, eccetera, eccetera. Queste cose ci sono, quindi diventa difficile, ci sono degli equilibri da mantenere, anche perché ci sono grossi interessi dietro. Penso si riferisse a questo fatto qui, però certamente più in alto si va, più gli interessi economici sono importanti. Basta vedere che importanza ha Raiola nel panorama calcistico, no? che gestisce i migliori calciatori o alcuni dei migliori calciatori che ci sono in circolazione, e come può condizionare le scelte delle società, e come queste scelte poi si ripercuotono anche sull'allenatore, anche se nessuno glielo dice direttamente, ma si percepiscono a volte, no? Che ci sono degli equilibri da gestire. Quindi, ad esempio, siccome negli anni poi seguenti alla tua cessata attività di calciatore in campo, ha intrapreso anche l'attività di osservatore per le società, hai fatto l'osservatore a Genova andando ad osservare le squadre che dovevate affrontare la domenica successiva, e poi anche l'osservatore di calciatori. Nel calcio, dove sono i procuratori a fare la parte del leone, il lavoro dell'osservatore viene un po' sminuito? Bisogna dire una cosa: innanzitutto le società organizzate hanno vari osservatori che viaggiano, che vanno su vari campi, su vari stadi a osservare. Poi dalle relazioni che vengono fatte, il direttore sportivo o il responsabile del settore tecnico comincia a fare una scelta di giocatori, una selezione. Questi giocatori vengono maggiormente seguiti anche da più osservatori sempre della società, per arrivare poi alla fine a avere un parere abbastanza quanto più veritiero sulle caratteristiche, sulle possibilità del calciatore in questione. Però poi non sempre è questo fattore qui che prevale nella scelta. A volte ci sono anche dei procuratori che, se gli prendi un giocatore, te ne fanno prendere anche un altro, e subentrano anche un po' fattori esterni, ma diciamo che le società organizzate sono quelle che hanno geograficamente, sono diciamo presenti su tutto il territorio, e che attraverso poi le relazioni riescono a selezionare quelli che possono essere per la società i giocatori più importanti. Bene, siamo giunti alla conclusione di questa lunga chiacchierata, lunga e piacevole, con Piero Pencini. L'ultima domanda che ti vorrei fare riguarda ancora Montevarchi e la montevarchinità. Ci hai parlato degli anni 70, degli anni in cui giocavi, in cui a Montevarchi si percepiva per strada l'amore per la squadra e per il calcio. Oggi, in questa nuova primavera in cui Montevarchi è ritornato dopo il fallimento a calcare, almeno tornerà a calcare i campi della Serie D, come percepisce l'emozione e la passione cittadina odierna il Piero Pencini che vive a Montevarchi, non più giocatore? Questa società si muove con molto entusiasmo, ma con molta concretezza. C'è un gruppo di dirigenti abbastanza folto, molto impegnati, molto interessati, che però non vogliono spendere soldi a caso, vogliono investire nel calcio, vogliono dare qualcosa di duraturo alla città, per cui si stanno muovendo in una maniera molto oculata. Noi abbiamo un problema Il primo problema è il problema delle strutture. Una società come Montevarchi non può fare a meno di avere delle strutture adeguate per sviluppare, portare avanti il discorso del settore giovanile, una cosa su cui questa società sta molto investendo, e ci sono stati anche molti risultati. Tutte le squadre giovanili hanno vinto quasi tutte nei loro campionati di appartenenza, e quindi l'investimento è un investimento che parte dal basso per poter negli anni creare qualcosa di concreto, di solido, di strutturale, che possa consentire a questa società di tornare a dei livelli che negli anni 70 erano, diciamo, dei livelli che ci appartenevano, perché in fondo abbiamo fatto in maniera continuativa, anche con qualche saliscendi, ma abbiamo fatto in maniera continuativa per 15 anni i professionisti, insomma, quindi non è una cosa da poco. È vero che oggi i tempi sono cambiati, ma questo cambiamento è frutto soprattutto di questa società che, ripeto, sta gettando le premesse, le basi per ritornare a livelli importanti. Non è possibile pensarlo per quest'anno, per il prossimo anno, ci vorranno degli anni, perché, ripeto, la prima cosa su cui bisogna veramente lavorare, adoperarsi, sono le strutture. Forse, se vogliamo fare un rimprovero a quel grande periodo d'oro che è stato il calcio a Montevarchi, è stata la trascuratezza di non aver mai pensato, programmato un qualcosa per il settore giovanile. Il settore giovanile veniva vissuto a quei tempi, fra alti e bassi, come un aspetto secondario, un aspetto estremamente sociale per far giocare i ragazzi del posto. Ecco, invece questa società sta cercando, anche perché non se ne può più fare a meno, di creare le premesse per portare avanti un discorso che ci dia poi una solidità, una struttura ottimale per poter aspirare a ritornare anche fra i professionisti. E questa considerazione finale di Piero direi che è una delle più belle notizie che si potesse dare alla città, a Montevarchi, ai montevarchini e a chi ha voglia di impegnarsi nel calcio in questa città. La puntata di stasera termina qua. Oh, ragazzi, vi devo dire una cosa. Io mi chiamo Pietro, no Piero. E qui c'è un grosso equivoco che va avanti da anni, perché io ufficialmente all'anagrafe sono Pietro. E a scuola, in banca, dappertutto mi chiamano Piero. E io dico, va bene, Piero ormai è passato. Anche a me, quando ero più giovane, mi piaceva che mi chiamassero Piero. Però io in realtà mi chiamo Pietro. E questo ora me ne sto accorgendo, perché quando presento dei documenti, cose, mi guardano e mi dicono, ma come? No, guardi, io sono Pietro. Anche a scuola, ragazzi, quando guardavano il registro, ma scusi, ma lei si chiama Piero o Pietro? Mi chiamo Pietro. No, via, non è possibile, la chiamano tutti Pietro. No, sono Pietro, capito? È una notizia questa. Esatto, questa è la seconda bella notizia, anzi bella, importante notizia da dare alla città. Insomma, Piero Bencini e Pietro Bencini. In realtà Pietro. Bene, allora abbiamo fatto fino adesso un'intervista con una persona diversa e ringraziamo Pietro Bencini per essere stato con noi, per essere stato così gentile da averci aperto la sua porta dei ricordi e di aver assecondato la nostra ricerca della montevarchinità. Ci auguriamo che questa puntata del Volo dell'Aquila vi sia piaciuta e ci auguriamo che ci ascolterete anche alla prossima puntata. Da Fumino un saluto e per stasera è tutto. Grazie anche da parte di Julian Carax e anche da parte del nostro regista Paolo Sorrentino. Buonasera a tutti. Prima o poi ci sarebbe dovuto anche essere l'occasione per farle ritornare i buoni voti che mi ha dato ai tempi. Lei, Piero, va bene, vale, va, riparto. In realtà, comunque, lei a Montevarchi... è un classico, senza sofferenza, non c'è mai, diciamo, goduria, ecco. Mi sono perso. È come quando tu scrivi. E tu scrivi, io a un certo punto vedo che ti metti di leggere, perché non capisco più che cosa tu dici.